Il primo progetto che stiamo per firmare è un accordo per circa 1 milione di euro che dovremo fare con una società della Fiat per la formazione di ricercatori, per la formazione imprenditoriale, anche imprenditoriale di ricercatori. Il secondo che stiamo trattando, sempre nel Mezzogiorno, è un progetto che supera i 10 milioni di euro, che è sui 13 milioni e mezzo di euro, e anche in questo caso si tratta di riuscire a formare persone perché siano in grado di far crescere o le piccole aziende che hanno oppure per far nascere nuove imprese. E questi sono i primi due. Poi abbiamo degli altri contatti sempre all'estero che sono, come è già stato ricordato, in Serbia ma anche in altri paesi, e diciamo che siamo ancora a livello preliminare, quindi non possiamo esporci più di tanto. Però credo che l'inizio sia molto buono, e quindi questo cosa comporta? Comporta un fatto molto importante, che ricadute su un territorio le hai soltanto se sei radicato sul territorio, il territorio ti aiuta e se il mercato te lo cerchi nel mondo. Si tratta dunque di progetti che verranno sviluppati in Italia e all'estero. Sì. Si tratta di due cose importanti. In Italia quello che manca rispetto ad altri paesi è la capacità non di fare ricerca, che si fa bene, ma la capacità di gestire la ricerca, cioè di tirar fuori i risultati e di trasferirli con successo sul mercato. Questo è quanto come area sappiamo fare molto bene, e credo che sia abbastanza difficile trovare un altro competitor in Italia in questo campo. Ce ne sono nel resto del mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Quindi noi quello che faremo è cercheremo, da un lato, con l'aiuto del MIB, di portare questo modo di gestire, di fare la gestione strategica operativa della ricerca e dell'innovazione nel mondo scientifico. Per contro, le stesse metodologie, con alcune variazioni, ma lieve variazioni, le utilizzeremo anche per far crescere le aziende, farle crescere come crescita dimensionale, quindi più grandi, crescita qualitativa, quindi miglior qualità nei loro prodotti, ma anche migliore qualità nella loro organizzazione, e relazionare, cioè fare in modo che si alleino con i migliori per riuscire a migliorare nei mercati più promettenti. Quindi, diciamo, applicare la ricerca, questo è il vostro obiettivo? Assolutamente, e insegnare ad applicarla.